perché è più una proposizione di temi su cui avrei piacere che si discutesse più che una serie di proposte interpretative. Il problema di fondo, secondo me, è quello che si diceva stamattina, ha detto il professor De Maddalena: crisi o non crisi, negli anni cruciali 1619-1620, decrescita o non decrescita, eccetera. Cioè, il problema è questo, secondo me. Quali sono gli indicatori che ci permettono di misurare una situazione di crisi? E io a questo dico fin dall'inizio, non ho una risposta precisa, io ne proporrò alcuni e si tratterà di vedere se sono più o meno validi, insomma. Perché per questo periodo ci sono degli indicatori, diciamo così, qualitativi, no? Per esempio i contemporanei dicono: ma in questo periodo le cose stanno andando bene. Oppure c'è questa genia di viaggiatori stranieri che vengono in Italia, che dicono, non so, da Commin fino alla fine del 500, 600, poi fino a Yang alla fine del 700, le cose vanno bene, benissimo. Tutti questi sono cose che danno magari il polso di una situazione. È molto più difficile poi fare i conti, cioè dire fino a quando si può accettare, fino a che punto si può accettare questo giudizio, per così dire, qualitativo, e fino a che punto possiamo misurarlo, perché il problema della crisi, secondo me, 1619-20 è proprio qui: trovare dei parametri. Quali possono essere? Secondo me, si sente bene in fondo, oppure ci sono problemi? Se venite più avanti, qui c'è tutto pieno. Dove? Qui ci sono posti, per esempio, grandi. Un certo limite. Vabbè, allora se proprio non si capisce, ditelo, io proverò a parlare più forte. Cioè, dicevo, quali indicatori ci permettono di misurare l'avanzamento o l'eventuale regresso e crisi dell'agricoltura dell'irriguo lombardo? Ci servirebbe un dato che però non abbiamo, inutile piangerci su, cioè quello che oggi chiamiamo il prodotto lordo vendibile o qualcosa del genere, no? Non c'è verso. Io poi anche per il Settecento su ricostruzioni come quelle di Toutain per la Francia sono molto perplesso, non so, adesso non mi intendo in queste cose, ma mi sembrano che siano un po' tirate fuori così. Immaginiamoci per il Cinquecento e per il Seicento. Si tratta di trovare allora degli indizi collaterali per vedere se riusciamo ad avere un senso verificabile, oggettivo, dell'andamento dell'agricoltura dell'irriguo lombardo. Uno degli elementi più significativi mi sembra indubbiamente quello della crescita della superficie irrigua, proprio perché la crescita della superficie irrigua mette in moto quel noto meccanismo, no? Disponibilità di prato, eventuale rotazione, bestiame sicuramente disponibile sul fondo, quindi il ciclo virtuoso, no? Come si suol dire, non la strozzatura della mancanza di bestiame, e collateralmente quei rapporti di produzione di tipo, diciamo, capitalistico, no? Grande conduzione, salariati, eccetera. Alla base di tutto questo, anche se con una serie di mediazioni che varrebbe la pena di approfondire, se ne parlava appunto a tavola con Moioli, alla base di tutto questo c'è indubbiamente l'irriguo. Qual è l'estensione della superficie irrigua nella storia dell'agricoltura lombarda? Ecco, direi che a occhio, siamo sempre sull'impressionistico, la sensazione è che ci sia un trend di forte espansione dell'irriguo nel periodo che va dal 1460 fino ai primi decenni del 600. 1460, sposto un po' indietro una periodizzazione così consacrata, che secondo me deriva semplicemente da questo fatto, che in genere i medievalisti si fermano nel 1492 e i modernisti partono nel 1493. E allora magari si perdono quei nessi che invece si sovrappongono ai due periodi. La sensazione è che la pace di Lodi, la pace degli ultimi decenni di cui gode la Lombardia, abbiano un certo effetto. E questo si riflette, io credo, anche nell'andamento dei prezzi. Noi per la Lombardia, per il 400, disponiamo oggi come oggi solo della tabella del professor Zanetti, che secondo me non dà appieno il senso di quello che succede, perché parte dal 1401-1402, che è una data di partenza sbagliata, perché sta morendo Gian Galeazzo Visconti e tutto sotto sopra, i prezzi sono molto lievitati. Se si prende questa data come punto di partenza, si ha una sensazione, quella che appunto dice Zanetti, di stagnazione nel 400, che invece sarebbe cancellata se si partisse, mettiamo, 20 anni dopo, quando Filippo Maria, bene o male, ha restaurato la situazione. E allora i prezzi calano e allora si vedrebbe già nel corso del 400 un processo di ascesa che arriva poi fino ai primi decenni del 600. Quindi comunque questo della periodizzazione è un discorso collaterale, l'ho detto perché dal 1460 in poi aumento dell'irriguo. Questo come si verifica? Su due tipi di dati. Facendo la storia di singole possessioni, ed è un dato naturalmente abbastanza particolare, generalizzabile fino a un certo punto, chi si è occupato di storia delle possessioni dell'irriguo lombardo ha trovato che in questi decenni si è fatto moltissimo. Insomma, io ho studiato Bertonico è significativo, proprio nel giro di 30-40 anni si passa da 150-200 ettari di irriguo a 800 ettari, insomma. Altre possessioni, Morimondo per esempio, possessioni dei Trivulzio, possessioni che oggi così, delle Quattro Marie, un ente ecclesiastico, un ente ospitaliero milanese, danno tutte questo senso. No, 1590, fine del 600, fine del 500, come naturalmente poi ognuna di queste possessioni si situa in un certo... 460 da 1500. Ecco. Così, l'impressione che questi siano anni importanti è data anche da un altro elemento che non deriva più da storia di singole possessioni, ma dalla storia del sistema irriguo lombardo. Anche questo tutto da fare, però è significativo il fatto che i grandi assi irrigatori che sostengono poi il peso della irrigazione nella bassa pianura lombarda sono tutti costruiti, direi, entro gli anni 60-70 del XV secolo. Gli ultimi ad arrivare sono la Martesana e il Naviglio di Bereguardo, poi c'era già la Muzza, la Vettabia, eccetera. Dal Naviglio di Bereguardo in poi, fino proprio al 7-800, non si hanno più queste grandi costruzioni di canali. Ci sarà naturalmente tutto il problema della redistribuzione attraverso canali secondari di quest'acqua, però gli assi irrigatori, a me pare, sono costruiti. Una verifica potrebbe essere data, una verifica quantitativa dell'estensione dell'irriguo potrebbe essere data dai dati del catasto di Carlo V. Ecco, anche questi dati, che come si sa risalgono circa al 1550, risentono di quel gioco sfalsato di prospettive per cui gli storici moderni sono più portati a considerarli come punto di partenza di un'evoluzione che matura nel 7-800 che non come un punto intermedio di un trend che appunto prende inizio dalla metà del 400 e magari arriva fin verso la fine del 500. Con questi limiti, secondo me, già i dati del 1550 sono significativi. Il territorio lodigiano, per esempio. Secondo i dati del Pugliese, che citava prima il professor Zaninelli, nel 1720 circa il 72% del lodigiano sarebbe irriguo. Per irriguo intendendo tutto, dalla risaia al prato, all'acquatoria vicenda. Il Pugliese dà il 47,2% per la metà del 500 ed è già una buona cifra. Il Pugliese, secondo me, fa l'errore. ha messo in evidenza nelle terre che erano contemporaneamente aratorie, scusate, vitate e adacquatorie, ha messo in evidenza il vitato dimenticando l'adacquatorio. Se noi aggiungiamo alla cifra dell'adacquatorio, prato, eccetera, il vitato adacquatorio, che è una cosa che ripugna la sensibilità degli enologi, ma che c'era, insomma, raggiungiamo il 56,5%. Questi dati derivano da una tesi che appunto è stata discussa a Milano qualche mese fa, e per cui sto cercando un finanziatore, come diceva Tavola, perché i dati sono belli, si tratterebbe di dare a questa ragazza la possibilità di pubblicare. È una No, deve anche un po' finire il lavoro. Comunque, secondo me, è una rilevazione della distribuzione delle colture in tutto il Lodigiano intorno alla metà del Cinquecento. Per il milanese abbiamo i dati di Coppola, il basso milanese, mi pare siano 34-35% di irrigo, io ho provato a fare un calcolo così, e che sono bassi rispetto al 700, però sono pur sempre consistenti. Per il pavese siamo su cifre ancora più basse, però bisogna tenere presente che il pavese ancora nell'Ottocento era una zona considerata arretrata, soprattutto dal punto di vista delle disponibilità irrigue. Ecco, concludendo, questi dati del 1550 danno il senso, secondo me, di una forte crescita in atto. Se aggiungiamo che mancano ancora 60-70 anni al punto di svolta ipotetico 1620 che ho indicato prima, e sono anni in cui da ricerche su singole aziende si capisce che questo lavoro di assestamento della rete irrigua prosegue. Se aggiungiamo che, e qui aspetto smentite, ma le aziende di cui mi sono occupato fino al 700 danno la sensazione che l'impianto irriguo aziendale sia assestato alla fine del 500. Impianto irriguo aziendale cosa vuol dire? Le ruote d'acqua sostanzialmente. Capita che noi le ruote d'acqua che troviamo in uso ancora nel 700-800 certe volte cambiano, certe volte sono le stesse che vediamo stabilizzarsi proprio intorno alla metà del 500. E questo secondo me è molto significativo, cioè lì magari c'è un po' d'acqua in più, però l'impianto complessivo è già definito. Ecco, non mi soffermo sugli altri aspetti che derivano da questa, che io suppongo significativa, estensione dell'irriguo, cioè il sistema degli avvicendamenti di cui parlavo prima. E sarebbe viceversa interessante fermarsi perché, insomma, dietro questo cosiddetto sistema tarelliano, no, c'è un po' un mito che qualcuno appunto abbia inventato le rotazioni. E le rotazioni si sapeva che funzionavano. Noi in Pietro dei Crescenzi, cioè quell'agronomo, no, degli inizi del 300, se confrontiamo, io non so se vi è capitato di farlo, il secondo paragrafo del settimo libro col decimo paragrafo del decimo libro di Palladio, che Pietro dei Crescenzi copia sostanzialmente, si vede che c'è una variante ed è proprio la tecnica della rotazione. Solo che alla metà del 300 non conveniva applicarla. Quando è che conviene applicarla? Quando intorno alla metà del 500 si dispone di una superficie irrigua talmente vasta che diventa vantaggioso mettere a prato delle terre, sapendo che poi si potrà anche lì applicare un ciclo di avvicendamenti che prevedono prato, ma prevedono anche altre colture di minor pregio. Quindi, secondo me, questa estensione dell'irrigo consente già alla fine del 500 quel sistema, diciamo, della bassa irrigua, grandi cascine, grandi possessioni, bestiame, eccetera, che troviamo poi celebrato da Cattaneo fino ai nostri giorni. Un altro indicatore significativo è quello dei canoni d'affitto, significativo, uno di quelli su cui bisogna provare a vedere se salta fuori qualcosa. Ecco, anche i canoni d'affitto in questo periodo, seconda metà del 400, fine del 500, segnano un fortissimo aumento. Per molte possessioni il canone aumenta di 4-6 volte. Si arriva a dei massimi, questo risulterà significativo per chi ha esperienza diretta di storia agraria lombarda, di canoni d'affitto di 7-8 lire a pertica, e dopo vedremo che significa. Dunque, grande aumento, quindi il raggiungimento di alti livelli. L'ira imperiale milanese. Imperiale. L'ira imperiale milanese. Sì. Ecco, bisogna dividere per 15 se hanno gli ettari. Quando sì, sono... sì. Ecco, bisogna dire che sono prezzi non deflattati, non deflazionati, insomma, non... Ecco. Quanto aumentano i prezzi agricoli? No? Per misurare se c'è semplicemente una registrazione di un aumento di prezzi agricoli o viceversa un supplemento di maggiore produttività. Qui non si sa bene, purtroppo bisogna dire. Io direi che fino agli anni 80-90 del 500 aumentano meno degli affitti, come del resto ha trovato il Kerridge per l'Inghilterra, che è l'unico lavoro che io sappia solamente certo. Comparato affitti-rendite, cioè prezzi agricoli-rendite, per questo periodo. Negli ultimi anni del Cinquecento, ma ci sono quelle crisi di cui si parlava stamattina, c'è un'impennata dei prezzi agricoli, gli affitti viceversa tendono un po' a calare, però nei primi decenni del Seicento c'è un certo riassestamento. Il canone d'affitto come indicatore è significativo fino a un certo punto, sia per i motivi che abbiamo detto, cioè cosa c'è dietro nell'andamento dei prezzi agricoli, sia anche perché... In che misura il canone d'affitto registra, oltre alla rendita, il profitto, no? O viceversa, cioè quanto c'è nel quanto lascia il proprietario fondiario che riscuote questo canone d'affitto come margine di profitto al fittante. Questo qui è difficile dire, sono cose indiziali, ha provato le Royal Jury per la lingua d'oca. Non mi sembra che queste parti siano le più convincenti, sono le discorsi della madre. Ecco. Comunque, con questi punti interrogativi, io ho la sensazione che anche da parte dei canoni d'affitto si abbia questa sensazione che l'agricoltura dell'Irrigo Lombardo è in notevole espansione. Io ho avuto dei confronti, ma molto parziali, su canoni d'affitto del territorio asciutto. Io ho lavorato per lo più su proprietà dell'ospedale maggiore di Milano e si ha la sensazione che in effetti nell'asciutto i canoni d'affitto crescano meno che nell'irrigo. Però è una cosa poi è molto delicata da verificare. Un altro punto, un altro indicatore, diciamo fra virgolette, è questo... Cadiamo paura nel qualitativo. Ne parlo perché ne accennava stamattina il professor De Maddalena e ha ripreso il discorso il professor Zanini. Quando adesso vediamo, cioè io avrei piacere di sapere esattamente se la crisi c'è o non c'è, se ci fossero delle cifre mi orienterei meglio. Ecco, quest'altro indicatore è il grado, diciamo, di imprenditorialità agraria. Che mi rendo conto di un'espressione così. Cioè questa gente, lo diceva il professor Zaninelli, cosa voleva nel 5, 600, 700? Si accontentava veramente del canone d'affitto che il fattore, il massaro gli prestava? Se non c'era di meglio da fare, sì. Nei momenti in cui l'economia, diciamo, tirava, no. Facevano proprio dei calcoli di investimento sulla terra per avere di più. 1460 Filippo Borromeo visita le sue possessioni, un documento dell'archivio Borromeo, e dice, proprio nota di suo pugno, in calce a un inventario, dice con pochi denari questa possessione renderebbe molto molto di più, 1460. Renderebbe perché stava prendendo in possesso del patrimonio che il padre gli aveva lasciato. Non so, i Trivulzio nel 500 investono moltissimo, c'è un allievo di Mirri che ha studiato queste cose, si vede proprio investono molto. Tommaso Marino, no? Il ben noto Tommaso Marino, non so se a qualcuno di voi è capitato di vedere, c'è appunto nell'archivio dell'ospedale maggiore un bellissimo documento, cioè Tommaso Marino giocava come molti speculatori del 500 su questo fatto che ha ben illustrato Cipolla, non prendere in affitto dagli enti ecclesiastici delle terre, si investivano molti soldi, la Chiesa non riusciva più a rimborsare i cosiddetti miglioramenti effettuati, allora per una serie di clausole contrattuali la terra restava in proprietà dell'affittuario. è una clausola che funziona molto spesso. Tommaso Marino l'ha fatta in grosso, cioè ha preso in affitto tutti i beni dell'abbazia di Morimondo che erano passati all'ospedale maggiore di Milano. Investe 100.000 lire nel giro di pochi anni, 100.000 lire su una grande possessione, ma 100.000 lire è un grosso investimento, tanto più che sugli stessi beni un precedente affittuario aveva investito 40.000 lire, cioè è proprio una... Ecco, c'è un processo, perché naturalmente quando si viene al dunque Tommaso Marino dice o datemi soldi o datemi beni. L'ente ecclesiastico qui è singolarmente fortunato, perché capita in un periodo in cui c'era un Borromeo come arcivescovo di Milano, c'era un milanese o quasi come Papa, fanno tutti un pasticcio, per cui Tommaso Marino, per quanto formalmente avesse ragione, insomma, prima gli dà ragione, ricorrono in appello, poi gli danno torto, lui perde i soldi e i beni, cioè in parte lo rimborsa, è una grossa operazione che gli è andata male. Ne ha beneficiato l'ospedale maggiore e anche l'archivio dell'ospedale maggiore, qui impariamo tutto questo. E poi ci sono vari esempi. Fra l'altro, in questa vicenda del processo Marino c'è un interrogatorio di testimoni proprio per stabilire se l'operazione compiuta dal Marino era così completamente arbitraria, nel senso che era uno stratagemma voluto per incastrare l'ente ecclesiastico, oppure una cosa che aveva, diciamo, una logica economica. Cioè si chiede a questa gente, ma valeva la pena, questa terra poteva rendere tanto da investire tanto? E interrogano 30-40 persone della zona, di Nasco, insomma, metà fra il milanese e il pavese, e si ha la sensazione di trovarsi in un ambiente di imprenditori agricoli, perché dicono sì, lì si poteva investire così, fare. È un documento secondo me molto interessante. Conclusione, per il Cinquecento, si ha la sensazione che questo sistema dell'irriguo sia veramente portato molto avanti. E sarebbe interessante, questo lo accenno così di passata, vedere se a questa crescita non abbia corrisposto anche un certo mutamento nell'assetto istituzionale della Lombardia spagnola per gli anni almeno dal 40 in poi. A me ha molto colpito nel libro di quel storico economico olandese, De Vries, quella contrapposizione fra i due modelli, modello di specializzazione e modello. Ecco, cioè lui dice... In molte parti d'Europa i ceti urbani hanno fatto una politica, diciamo, di soffocamento del contado, no? Tassandolo con affitti, tasse, eccetera. In Olanda no. E questo si è risolto in un immediato impoverimento delle rendite dei ceti urbani, perché appunto si lasciava fiato, affittavoli. Però a lungo andare si è creata la possibilità di un mercato di beni non agricoli nel contado, e quindi una possibilità di accesso di clienti comitatini al mercato urbano che a lungo andare funziona. Ecco, io non so, questo bisognerebbe, se si cade pesantemente nel qualitativo, però ci sono alcuni indizi che il contado nella seconda metà del Cinquecento in Lombardia recuperi. Sappiamo tutti le congregazioni del contado, diceva Sella quel convegno orientamenti, anche se non sarei mai d'accordo, dei consigli cittadini più a favore di interessi fondiari, visto che i consigli cittadini ormai sono di proprietari formati da proprietari fondiari, che non a favore di vecchi interessi corporativi, eccetera. Questo è un po' da vedere, però potrebbe aver influito. Insomma, in certi casi si ha la sensazione che anche questi mutamenti istituzionali abbiano influito in questa ripresa del contatto. Tutti questi indicatori che ho detto mutano un po' di segno in questi anni fatidici, 1619-1620, fatidici insomma. Cosa succede? Ecco, poi io non so se crisi sia o no. Andamento degli affitti. Ecco, qui io ho trovato in molte possessioni una netta inversione di tendenza, e non solo io, del resto Spaggiari, quando ho studiato il Collegio Ghisleri di Pavia, quando ho studiato i Dadda, nell'abbazia di Morimondo, nei beni dell'ospedale maggiore di Bertonico, questi li ho studiati direttamente io, posso dare alcune cifre. 1593-1602, in certe possessioni si arriva a canoni di affitto di 7-8 lire a pertica milanese. C'è una caduta che varia del 20-30%. Per recuperare questi livelli di affitto bisogna arrivare al 1780, cioè fino al 1780 gli affitti si tengono sotto questi livelli a cui arrivano a fine del 500 e inizio del 600. Le possessioni sono quelle di Campolongo e di Ceradello, ben note negli annali della storiografia dell'Ospedale Maggiore, Zelo Buonpersi, insomma tante altre ce ne sono. Ecco, in altre possessioni la tendenza non è così marcata. Per esempio, quella svolta anni 60-70 del 600 si avverte, no? Cioè alcune possessioni già 30-40 anni dopo la crisi si riavvicinano ai livelli della fine del 500. Comunque un deciso abbassamento degli affitti intorno a questi anni c'è. Non so quanto questo indizio possa essere significativo. Un altro indizio è che talvolta il sistema del grande affitto in questi anni cade, cioè non si trovano più fittavoli in grado di assumersi gli oneri pesanti di una conduzione che indubbiamente era pesante, cioè scorte, bestiame, canone di affitto molto alto. Questo si verifica in varie possessioni. Anche il Sella ne parlava a Milano, io l'ho visto per esempio nella possessione di Bellinzago delle Quattro Marie, nella possessione, varie possessioni dell'Ospedale Maggiore, cioè cosa succede? Laddove c'era un grande affitto si ricavano 4-5 masserie, no? Che è una gestione molto meno pesante da condurre che non un complesso di grande affitto. Anche nell'andamento dell'irriguo, per i motivi che ho detto prima, io vedo in questi decenni una certa svolta, cioè il grosso si è ormai fatto. Io ho visto, non c'è qui la professoressa Canetta, che dà invece, mi pare, nel suo saggio l'idea di una crescita anche fra 6 e 700. Ecco, io su questo sono un po' più perplesso, non perché sappia di preciso che non è così, ma i dati che sono proposti sono forse un po' discutibili. Per esempio, l'aumento del numero delle bocche nei navigli, o l'aumento dell'onciato delle bocche dei navigli, insomma. Cioè, le inchieste dei magistrati che presiedevano appunto alle riscossioni fiscali sul prelievo d'acqua da queste rogge, queste inchieste sono tutte concordi nel dire che l'onciato fiscale non corrispondeva alla realtà, insomma, con tutti gli accorgimenti che l'ingegneria idraulica lombarda aveva creato, no? Questi speroni sotterranei che facevano divergere il filo della corrente, o certe spalliere in certe curve che indirizzavano il flusso d'acqua, si sapeva che una bocca che prevedeva 10 once magistrali ne poteva anche assorbire 20 o 30, insomma. Quindi questi dati, fino a che non si introduce il modulo magistrale milanese che misura anche la portata secondo, no? E dopo questi dati sull'onciato secondo me sono incerti. Ecco, se si tolgono questi non ci sono indizi che una crescita ci sia. Viceversa, all'interno delle possessioni si ha quella sensazione che dicevo prima che i giochi fossero un po' fatti. Semmai, ecco, si perfeziona il sistema. È nella seconda metà del 600 che io ho trovato la costruzione di alcuni cavi di raccolta dei colatizi, ecco, non so se anche te, cioè lì c'era quest'acqua, una parte si perdeva dopo che aveva irrigato una certa superficie di terreno, invece che farla perdere si fa un cavo di sotto e si recupera, e questo naturalmente aumenta l'irriguo, però non sono quelle cose che modificano un paesaggio agrario, insomma sono aggiustamenti, così come alcune paludi, per esempio, si bonificano e così via. Anche il professor De Maddalena, la possessione del Gioioso, aveva trovato qualcosa del genere, mi sembra. Ecco, un ragazzo che si laurea con me, sta studiando una possessione di San Salvatore di Pavia, Corteolona, dove c'è una palude, la bonificano proprio nel 600, bonificano, sistemano un po' meglio questa. Partono con la risaia, poi a poco... Poi vorrei dire molto rapidamente che a conferma del fatto che le cose No, conferma, ecco, cosa significano tutti questi indizi? E qui si apre il problema, insomma, perché non sono certamente determinanti. Perché, non so, io ho in mente quell'articolo di Leroy Durin e la Michelin alla Brousse, in cui dice, tra l'altro non è una novità, che in casi come quelli che ho descritto, giusto in casi come quelli che ho descritto, diminuisce il reddito globale, aumenta molto la produttività. Se cioè c'è più agio per sistemare una possessione, non c'è lo stimolo della crescita demografica, dopo la peste del 28-30 non c'è certamente questo stimolo, e chissà che nonostante tutto questo la produttività non aumenti, cioè il sistema in qualche misura si perfeziona. E questo del resto corrisponde abbastanza bene con l'esempio catalano, insomma, che è studiato da Vilar. Io, a me pare di vedere che in Catalogna capitano cose abbastanza simili a quelle che capitano in Lombardia, nel senso che c'è una fortissima irrigazione, c'è una forte, così, una stagnazione nell'economia intorno, e c'è questo settore agricolo molto spinto in avanti che giusto si perfeziona in questi periodi che sembrerebbero di crisi generale, però sono cose appunto su cui vorrei che si... Un'ultima cosa prima di concludere, richiamare brevemente, nonostante quello che ho detto dei margini, cioè della situazione positiva, tutto sommato, dell'agricoltura lombarda in questo periodo, i margini di miglioramento. Per esempio, il riso è poco diffuso, no? Il riso si diffonderà dopo, in questo periodo, e questo è un grosso acquisto per l'agricoltura lombarda. Le rotazioni. Indubbiamente sono applicate dalla metà del Cinquecento, ci sono dei dati obiettivi. Però un conto è il principio astratto, dicevamo prima, della rotazione, un conto è una buona rotazione. Alle rotazioni di 7-9 anni si arriva nel Settecento. Insomma, almeno io non ho trovato delle prove inconfutabili che certe rotazioni lunghe, proprio perfette, la manuale che troviamo nel Settecento, ci fossero anche prima. Il bestiame sul fondo è un'altra croce, perché c'è la faccenda dei bergamini, no? Quando è che il fittavolo ha le forze sufficienti per portare lui coi propri soldi sul fondo il bestiame? L'ospedale Maggiore continua a rifornire i suoi fittavoli il bestiame fino a molto tempo, questo lo sai, puoi dire tu. Ecco, e poi le marcite. Sulle marcite c'è tutta questa letteratura fra geografico e cattaneana che lo fa risalire ai benedettini del XII secolo. Io gli indizi più significativi di un notevole aumento della marcita li ho trovati solo a partire dalla seconda metà del Settecento. Non so adesso che esperienza avete voi, ma proprio si arriva a 2-4-6% per possessione nella seconda metà del Settecento e poi crescono sempre in questi limiti. È assurdo pensare alla marcita, assurdo, non è significativa, se c'era era proprio... cioè, poi c'è il mais, che tengo per buono ultimo, che è una cosa importantissima, perché insomma, già ci sono delle memorie del Seicento, ne parlava Sella a Milano, che proprio teorizzano il fatto che bisogna comprimere il livello di alimentazione contadina per avere di più, quello che diceva anche Gianninelli stamattina. Un modo di comprimere e ridurre il contenuto dell'alimentazione contadina è il mais, che rende molto di più, dà al contadino molto di più. Questo adesso impareremo dal libro di Coppola, qual è la cronologia della diffusione del mais. Tutto questo nel 600 non c'è. C'è. Però questo sistema dell'irrigo che alla fine del 500 e senza sostanziali scosse nel corso del 600, perché quegli indicatori in negativo che ho detto non mi sembra che inficino il concetto che tutto sommato il sistema dell'irrigo regge. E a questo punto, ecco, parlare di crisi o non crisi diventa molto difficile. Secondo me in questi studi sull'irrigo lombardo c'è un certo difetto di metodo, no? In cui sono caduto anch'io e ho perso molto tempo e ancora non so trovare una via per venirne fuori, cioè studiare l'agricoltura dell'irrigo in funzione del sistema dell'irrigo, cioè il grande affitto. Questo secondo me è un tipo di lavoro a cui molti si sono dedicati, soprattutto da Cattaneo in poi, no? Cattaneo è veramente il poeta del sistema rigolombardo. E allora quando uno trova che c'è la possessione, le stalle, il prato, le rotazioni, il grande affitto, eccetera, dice, beh, io seguo questo, quando vedo che tutto questo c'è, allora c'è l'agricoltura dell'Irrigo. Ecco, questo probabilmente, secondo me, è un po' fuorviante. In che senso? Nel senso che l'agricoltura di questo meccanismo ha alcune caratteristiche. Uno, tutto sommato, è più facile costruirlo di quanto non si immagini. Se ne parlava a Verona, il professor De Maddalena forse su questo non è d'accordo. A me pare di constatare un certo automatismo, insomma. Come del resto aveva già detto Cafani. Quando c'è l'irrigo, dopo diventa naturale costruirci su una cascina, è più facile trovare un fittabile che porti più bestiame. È una macchina che si monta quasi automaticamente. Sì, ecco, un meccanismo che viene abbastanza facile nei primi decenni del Cinquecento in molte zone, secondo me tutti i pezzi del sistema ci sono, il meccanismo bene o male funziona. Però c'è anche un'altra cosa, e secondo me è questa quella che dovrebbe indurci a sottovalutare tutto sommato la scelta dello studio del sistema irriguo come indicatore principe. Il fatto che il sistema irriguo non è il motore dello sviluppo, insomma, lo dicevo un po' stamattina quando parlando con il professor Zaninelli. Se noi diciamo che è condizione necessaria per uno sviluppo dell'economia lombarda, d'accordo, no? Okay, d'accordo, insomma, per i modelli che circolano adesso, se in un'area che si sta industrializzando, dove giusto appunto c'è un'agricoltura che rende poco della manodopera disponibile a basso prezzo e che quindi fa un altro lavoro, in cui quindi a poco cresceranno, che so io, le filande, eccetera. Se accanto a tutto questo, altopiano asciutto lombardo, c'è un'area con forte produzione di derrate alimentari, benissimo, cioè è proprio la condizione, come del resto studiato Jones per l'Inghilterra, insomma anche lui mi pare che ha visto questa dialettica fra zone. Però da questa buona valutazione dell'irriguo non deve discendere che l'irriguo abbia di per sé stesso la forza sufficiente per promuovere uno sviluppo di crescita. Insomma, il fattore è esogeno all'agricoltura. Quindi ripeto quello che avevo detto stamattina a De Maddalena, che mi chiedeva appunto un po' di chiarire. Scelta di una vocazione comitatina dell'agricoltura lombarda, vocazione diciamo rurale dell'economia lombarda in antitesi all'economia cittadina va bene, quando economia rurale non significhi solo agricoltura, ma significhi soprattutto quei processi di crescita manifatturiera, diciamo nel nostro caso direi la seta, io non so perché, che sono quelle che sono il lievito di tutto il resto, insomma. Perché nel Settecento questo sistema che è già compiuto nel Cinquecento tira tanto di più? Perché nella seconda metà del Settecento i prezzi, i canoni d'affitto di una possessione di cui io non vedo, ma non ne ho neanche studiate tanto, ma non riesco a vedere così all'ingrosso che cambino, che i pezzi del meccanismo siano diversi, perché i canoni d'affitto nel giro di 20 o 30 anni raddoppiano, no? Lì allora il meccanismo funziona a pieno ritmo, ma c'è qualcos'altro dall'esterno che lo fa funzionare, e come diceva Zaninelli stamattina, non so, mette in luce proprio quelle potenzialità di un apparato produttivo che non funzionava prima, ma era già come predisposto a funzionare. Insomma, adesso mi spiego un po'. Non c'è nessuna polemica, sto cercando di capire. Ecco, poi un'altra cosa che mi conferma un pochino in conferma, insomma, stamattina diceva il professor Zaninelli, l'asciutto non può progredire, no? E io non ho studiato, non lo so, penso che sia vero, però se noi leggiamo gli agronomi dell'Ottocento lombardo, anche Irrigo, dicevano che anche l'Irrigo non poteva progredire, no? Iacini, la preoccupazione di Iacini era che eravamo arrivati al culmine, adesso io non so perché Iacini ho letto poco, ma anche Cattaneo, c'è come questa sensazione che l'edificio è così compiuto e perfetto che più di lì non si va, o si cambia tutto, o comunque quello che poteva. Allora questo cosa significa? Che c'è una specie di dissociazione fra sistema del Rigo come motore e tutto il meccanismo dell'economia lombarda, in cui il sistema del Rigo ha una certa importanza, ma che però non è essenziale. Quindi secondo me non è, è un po' fuorviante studiare l'agricoltura del Rigo studiando, per esempio, ecco, il sistema del grande affitto, insomma. E sarebbe interessante anche sapere come è capitato questo. Io non so, adesso pensando agli anni 65-70 in Italia, 68 tanto per dire, ma in un altro contesto, cioè quel convegno agricoltura e sviluppo del capitalismo, no? Dove si è lanciata, come dire, si è lanciato, è diventata un po' un tema proposto ai ricercatori, agricoltura e sviluppo del capitalismo. E adesso, rileggendo la distanza di tempo, a me pare di notare alcune grosse aporie. Per esempio Sereni e Zangari cosa dicevano polemizzando con Gershwin? A questo punto la relazione è finita, dicono alcune cose che non sono sicuro. Ma mi pare dire così, cosa dicevano? Rimproveravano a Gershwin e a questi modellisti il fatto di dire: voi disegnate un meccanismo di sviluppo e dimenticate che questo meccanismo va visto in una forma dominante. Insomma, quindi non ditemi che ci vogliono questi prerequisiti, questi altri, cioè, bisogna vedere tutto il contesto. Poi mi pare che soprattutto Sereni facesse un po' questo errore, tutto sommato, di privilegiare all'interno di un sistema economico come quello lombardo un aspetto, cioè il rapporto di produzione, come se il rapporto di produzione fosse l'indicatore principe, come se il capitalismo nell'agricoltura fosse una cosa che l'agricoltura induce in un sistema economico e viceversa, come a me pare di capire, insomma, non sia una cosa indotta in un sistema economico. I rapporti di produzione capitalistici, grande affitto, queste robe qui, non è difficile trovarli, non è difficile costruirli quando c'è una certa... Non è difficile trovare nella manifattura fiorentina del 300 dei rapporti di produzione di tipo capitalistico, insomma. Ma sono significativi di tutto un sistema. Ecco, io di questo ho il forte dubbio, e mi sembra che in quegli atti, però, agricoltura e sviluppo del capitalismo, ci fosse un po' questa proposta. Adesso non li ho letti tutti, ma nel ricordo io ero uscito con questo. Cioè, laddove troviamo certi rapporti di produzione, lì c'è. Invece forse no, è proprio l'indicatore fasullo per tutto questo. Io ho finito, scusate se non ho capito. Io volevo riallacciare a quella discussione di stamattina, ma appunto, e usando un po' nel senso di quello che diceva adesso Codini, cioè questi elementi magari di tipo capitalistico. A me sembra che appunto siano inseriti in un sistema generale socio-politico, socio-economico-politico di tutt'altro genere. E in particolare a me sembra che ovviamente questo sviluppo delle campagne, tutto bene, d'accordo, ha fatto di vederlo, cioè quindi facendo la relazione di Sella di settembre, d'accordo sui dati, non d'accordo sull'interpretazione, cioè la città a me sembra che resti dominante, no? Cioè, quindi sono questi continuano a vivere in città, continuano a controllare dalla città il contatto. E a questo proposito, visto che c'è anche un'esperta di Genova, pensavo a questo, non so, se un indicatore significativo possa essere questo. Gli investimenti genovesi si fanno in terra, si fanno a Napoli, no? E non a Milano, che così, magari sono dei motivi specifici, comunque sembrerebbe molto più comodo, no? Cioè la possibilità di controllare questi investimenti piuttosto che andare fino a Napoli. Perché questo? Allora, come un po' fissato sul patriziato, pensavo una spiegazione potrebbe essere questa. A Napoli il fatto di contare su un feudo molto forte garantisce gli investimenti, cioè questi qua acquistano il ferro, e di conseguenza garantisce, cioè, è il ferro che garantisce i redditi, insomma, no? Direttamente e indirettamente. Nel Ducato di Milano invece il feudo è poco rilevante e conta molto più la, il controllo delle cariche cittadine. Quindi un investimento di uno straniero, diciamo, nello Stato è molto più aleatorio, proprio perché non ha in mano le leve politiche, mentre al sud il feudo è immediatamente politico. E questo, non lo so, poi se ci siano altri elementi, no? Potrebbe andare nel senso di quello che dicevo, cioè ancora della rilevanza dell'età moderna del dominio cittadino e delle strutture di governo cittadino. Andiamo subito. Ecco, letto un po' io stesso un paio di altro fa, facendo un'altra domanda sulla provenienza appunto di questi capitali che si dirigono verso l'agricoltura in questa fase di espansione tra la metà del 400, diciamo, e i primi decenni del 600. Io adesso per genere non lo so, sono diciamo ignorante in linea generale, tanto per genere. Mi sembra che molto spesso negli investimenti genovesi nella napoletana, per esempio, sia presente il fatto di crediti, di impegni finanziari precedenti, che trovano una loro, un loro salto soltanto nella cessione di feudi, cioè problemi della corona di Spagna, cioè problemi di prestiti fatti allo Stato spagnolo in qualche modo, non lo so, ecco, veramente qualunque, non so niente, non ne so niente. Però nel capitalismo finanziario di Modellese, il cointeressamento con la Spagna porta certamente ad avere conseguenze anche in questo tipo, mi pare, di investimento. Nel sud Italia. Per quanto riguarda Milano, a me interesserebbe sapere questo, insomma, e se nel passaggio appunto alla dominazione spagnola noi abbiamo uno spostamento di capitali dall'impiego di tipo politico o parapolitico, insomma, questi uffici pubblici, eccetera, eccetera, verso la proprietà agricola. Quindi se abbiamo uno spostamento di capitale e un, diciamo, un rientro in patria di capitali investiti fuori dal Milanese. Io ho solo l'esempio per la Puglia romana, di un certo punto Aurelio Catania milanese, che mi aveva colpito perché negli anni dopo il Concilio di Trento, insomma, nell'ultima fase, nel 1562-64, questo qui svende letteralmente tutti gli uffici di Puglia che lui possedeva a Roma, che gli rendevano il 12%, e acquista terre nel Paese, che gli rendevano il 3,5%. E tutto il suo grosso ragionamento che fa in 40 lettere, in cui il suo collega Roma diceva che era pazzo, che nonostante tutto la chiesa di Roma, insomma, aveva sempre funzionato abbastanza bene, cioè, per aiutare la disqualità, diceva, preferisco il 3,5 in terra e qua, che il 12% a Roma. Cioè, io non mi fido, cioè, era ben chiaro la differenza assoluta di interesse, diciamo, veramente un terzo, insomma, più o meno. Però questo non lo diceva più, non per cambiare la sua idea, che era poi l'idea da scrivere sulla terra, ecco, anche la sua capacità, diciamo, manageriale, di emozio, insomma. Cioè, lui aveva ovviamente la coscienza che questo investimento rendeva poco, ma non solo era sicuro, ma lo prendeva anche come operatore economico, cioè in qualche modo c'era il trasformarsi di questo uomo, questo mi affascinava, insomma. Da uomo politico, cioè il tipo che era stato segretario del Mancuso di Trento, che aveva viaggiato tra l'impero e Roma, eccetera, per vent'anni, insomma, tra le conti politiche europee, che si trasforma in imprenditore agricolo, sostanzialmente, negli ultimi anni. E lo fa portando nell'imprenditoria agricola quella che era così il suo spirito di iniziativa. E questa è una domanda, così semplicemente per chiedere se ci sono dei sintomi, insomma, anche questo è un po' un caso individuale, ma che ci sia stato, diciamo, uno spostamento non solo di capitale, ma anche, diciamo, di iniziative imprenditoriali in questo senso. Dopo il prossimo giorno facciamo la prima giornata di risposte senza bloccare una cosa abbastanza breve. Il professor Pintori ha parlato di fine o perlomeno di superamento del grande affitto, cioè questo spezzettamento delle grandi produzioni. A me piacerebbe sapere l'epoca, perché se ho ben capito essa si dovrebbe collocare dopo il 1620, dopo il 1630, e siamo, se non vado errato, in un periodo di forte calo della popolazione. Cioè, come si concilia questo spezzettamento, questo passaggio verso le medie masse che pure hanno bisogno di uomini, con la rarefazione della popolazione? E poi una seconda domanda, volevo chiederle se lei ha visto, dovrebbe essere rivolta a Coppola, ma non l'ha visto il tuo libro ancora, e che ruolo ha il mais in queste rotazioni? Quando comincia in sostanza a entrare nel ciclo di successione delle culture? Allora, adesso la parola ai due relatori, poi dopo su quest'ultima parte diciamo la separiamo un po' per prendere la rispondo io rapidamente perché la risposta è forse più breve. Cioè, fine grande affitto, prima di tutto non so se hai capito che non è generalizzabile, in alcune grandi se capito. Ecco, secondo me prima di tutto alcune rotture del grande affitto precedono la peste, già negli anni, diciamo, il Piero Mano aveva indicato come anni di svolta, 1820, a cavallo prima o poi ci sono delle possessioni, mi pare proprio Bellinzago, che citavo prima, una possessione di 2000 perti, che già prima si fraziona. Quindi non c'è un nesso preciso, c'è secondo me una crisi degli elementi per cui non conviene più prendere in affitto una grossa possessione. Non sono del tutto d'accordo che frazionamento in masserie presupponga una minore densità di popolazione, perché mi sono spiegato male. Secondo me il frazionamento in masserie può anche dipendere dal fatto che la popolazione è calata. Ecco, che l'effetto non è immediato, direttamente, cioè in un villaggio è calata la popolazione, allora così non si può più impiantare un contratto a masseria. Il discorso è forse più generale, nel senso che il mercato dei prodotti agricoli crolla. Allora un sistema come quello... Crolla perché è diminuita la domanda. Cioè la popolazione. Però la gente per far andare avanti le masserie si trova, non si trova il grande affittabile imprenditore. Vabbè, ma il grande affittabile imprenditore è colui che coordina i mezzi di produzione, cioè ha possibilità di attingere forza di lavoro pagandola magari altrove. Ma deve avere dei soldi. È affittabile imprenditore, è il suo mestiere, l'imprenditore. Ma se i soldi non ce li ha, perché a parte quello che ho detto, ci sono proprio molti casi in cui i affittabili non hanno più i soldi per andare avanti, si fanno abbonare alcuni anni di affitti, poi dicono non ce la faccio più. Allora il proprietario cosa fa? Altri affittabili non li trova, allora va avanti come può, o abbassa gli affitti o li dà dei massari, ecco il caso dei dati. Cioè non vedo il nesso stretto calo della popolazione. Chiedevo. No, ma è un problema anche questo. Siccome ho dei punti, sì, ma non è che voglio essere per il torto. Si sta verificando della domanda di Mosè. Ah no, era il voto. Una maniera ci sarebbe per far andare avanti la vita, passare la rapporto a fatto destrutturare. In alcuni casi forse succede proprio così. Questo dovrebbe essere una risposta. Secondo me è tutto da studiare. Ah, ecco. Parlo questo. Qui c'è una serie di problemi che vengono sollevati, al di là delle domande che sono state poste a lei, sono state poste a Giorgio Frocca, a Giorgio Spiglini. Per cui, non so, bisognerebbe fare delle cose su questi Dunque, vediamo toccare quel punto. Implicitamente do, faccio la domanda e cerco di rispondere a delle implicite domande che nel discorso di Tito Vignone che ho rivolto a me stamattina, li ricordo. Dunque, vorrei toccare il problema che ha sollevato Mozzarelli. Mozzarelli, se ho ben capito, non è molto d'accordo, per nulla d'accordo, su ciò che io ho detto, sovrapposizione graduale dell'immagine rurale sull'immagine cittadina del corso del Seicento. Ma sulle conseguenze di questo. Come? Sulle conseguenze, cioè sul fatto che a quel punto sia la campagna che predomina sulla città, diciamo. Sì, dunque io vorrei dire questo, quando io parlo di sovrapposizione di credenza della campagna nei confronti della città, e mica distruggo la città, dico soltanto che il mio modo di vedere la città non pilota più la società, l'economia, il mondo complessivo dello Stato di Milano, così come faceva prima, e per una ragione molto semplice, perché ormai gli interessi dei cittadini, più che essere rivolti intus la città, sono rivolti fuori dalla città. Vorrei dal punto di vista proprio se sì, così che limiti quello che offrono i dati statistici, fare un brevissimo pensamento. Milano nel 1655 è Milano città, capitale, è a circa i tre quarti della popolazione che aveva prima della distruzione della città. Torna ad essere grosso modo sulle popolazione pre-manzoniana, voglio dire, è nel 1688 e lì vi rimane poi praticamente fino a Francesine nel 1715, che ho studiato proprio da Romagna, Ora, la città come numero di persone è lo stesso, ma è il peso che la città ha nei confronti della vita economica che vi si svolge internamente e della vita economica che ha fuori. Non credo che ci siano dubbi, le dimostrazioni sono state date da vari studiosi, che nel corso del 600 l'attività economica cittadina si va sempre più indebolendo, sempre più, dopo il 600 sempre più indebolendo. Il numero però delle persone che vi sono dentro rimane praticamente ancora quello. Quindi bisogna che qualche cosa giri dentro, se no non ci siamo. È certamente, a mio modo di vedere, uno studio che sarebbe da fare, aumentato probabilmente il numero dei buoni. Quindi diciamo una popolazione dal punto di vista economico abbastanza parassitaria, se si vuole. È aumentato il numero dei mercanti, basta vedere le matricole delle varie attività mercantili nella seconda metà del 600. Sono certamente, per i pochi confronti che si possono fare con cent'anni prima, molto più numerosi. Voglio dire, le attività terziarie nell'ambito cittadino sono decisamente aumentate. Ma su che cosa operano questi mercati? Non operano più sulla produzione industriale interna. Operano più o meno direttamente associati ai proprietari terrieri, sulla produzione del contatto, sia produzione agricola, sia la produzione delle industrie trasferitesi nel contatto. Quando io dico mondo rurale, quindi, capisco, sarei certamente in errore se usassi il termine agricolo. Uso il termine rurale per conglobare tutte le attività economiche che si svolgono extramedia. Quindi anche le attività di tipo industriale, paraindustriale, che si svolgono sopra in Italia, nel senso che si utilizzano pro tempore la stessa manodopera agricola per questo fuori. E attenzione, ecco qui dove, a mio modo di vedere, va fatto il discorso sul modo con cui la classe diciamo, imprenditoriaggio, anche per le nostre parole, potrei dire veramente ambiziosa per quell'epoca, la classe imprenditoriale è opera. Opera a cavallo contemporaneamente tra il mondo dell'equo e il mondo della scienza. Se noi andiamo a valutare gli investimenti fatti prima, realizzati meglio dopo e completati, se si vuole, prima di quel 1675-80, come vedete, mi sembra che una realizzazione ormai considerata, non dico ottimale, ma soddisfacente dell'assestamento delle campagne, gli investimenti che vengono fatti si distribuiscono da parte delle stesse dinastie di varia estrazione, comunque non nobiliare, tanto al sud quanto al nord, proprio per giocare sulle integrazioni sia agricole sia industriali che possono avvenire nelle diverse zone della Lombardia. Lo so, tipicamente i Crivelli, dove vedi in questo momento, investono giù e investono su nella zona collinare. Perché? Perché qui cominciano a sfruttare a fondo il gelso, il baco, vi dicendo, là portano avanti, e qui do pienamente ragione a tutto il discorso di Vittorini, portano avanti quel discorso che si è già completato, questo mi ha allargato il cuore sentendo dire anche da lui. Nel corso del Cinquecento, la sistemazione ormai dei meccanismi dell'economia agricola avviene proprio nel Cinquecento, proprio nel momento in cui si ha, tra l'altro, la massima espansione industriale in città. Ecco perché io parlo di un discorso strategico e non di un discorso tattico. Cioè, chi opera, chi ha i capitali, evidentemente nel Cinquecento, sono soprattutto fatti in una prima fase nel mondo delle attività terziarie e delle attività industriali che risorgono, ma subito si integrano queste attività con gli investimenti e i redditi che si vengono ritrovati nel contatto, fin dal 500, cioè è da lì che comincia l'architrave portante successiva del sistema lombardo a prendere corpo. Ora, io capisco le preoccupazioni di Mozzarelli, io le capisco in questo senso, ma allora queste le istituzioni cittadine non hanno più significato da un punto di vista politico, amministrativo. Io ho la sensazione che perdano un po' di potenzialità, anzi parecchia. Tanto è vero che, e se ne parlava proprio a colazione un attimo almeno con Giorgio, io devo precisare che Torino sono sotto un po' di dubbio, come si chiamavano le congregazioni? Quelle che vengono fatte a Novara, le congregazioni del contado. Con la fine del Cinquecento alzano la voce decisamente nei confronti della città, per esempio la ripartizione dei carichi tali. Per esempio, in secondo luogo, chi sono questi tali? Però qui si va a fare ricerca. È chiaro il grosso problema che si pone Giorgio è questo. Chi sono questi rappresentanti del contado? Se cominciamo a classificarli come appartenenti a certe categorie professionali, sociali, chi sono? Io butto là una mia ipotesi, è un'ipotesi, però da qualche nome che ho ricavato e da qualche annotazione che ho trovato anche da un punto di vista direi quasi contabile, ho questa sensazione che molti di costoro che vengono dalle congregazioni del contado siano delle longhe manus, delle proprietà dei proprietari che vivono in città, i quali hanno bisogno di propri rappresentanti che inducano certo a modificare il loro rapporto sul piano per esempio fiscale, anche nel contatto, ma in modo tale che ne tornino non troppo storti fuori. che cosa avviene? Avviene chiaramente un grosso problema. L'establishment politico-amministrativo di Milano, con la fine del Cinquecento, si trova invischiato in una situazione drammatica. La Spagna continua a chiedere sempre di più. Il grande serbatoio di ricchezza era rappresentato dall'attività industriale, il mercimonio, diciamo, in senso ampio come si usava il termine allora, mercato e industria. Questi stanno andando a catafascio, o si sente che stanno riducendo, si comincia a pensare all'esterno. In quell'esterno in cui i capitalisti che hanno investito si erano in un certo senso trovati sicuri, perché là per adesso la mano del fisco non arrivava. Ma si prevede che arriverà e sbotterà il piede intorno al 1640. Lo dimostra per esempio i dati del Tata, in cui una forte tangente fiscale è quella che riduce tra l'altro i profitti che realizzano fino a diventare di due questi negativi. Quindi l'estimo uguale rispetto all'estimo cittadino verrà poi applicato decisamente col terzo quarto decennio. Intanto però loro sono già proprietari. Intanto si trovano quindi in questa drammatica situazione di essere burocrati, dover raccogliere i fondi perché la Spagna spinge. In realtà la città non dà più, si prevede che prima o poi dovrà dare la campagna. La campagna è intesa in tutta la sua dimensione, non soltanto agricolarmente parlando, ma in tutte le sue dimensioni di produzione economica. Quindi a livello anche, per esempio, di industrie che sono state trasferite fuori. Io non so se inserire qui, ma a me pare questo, no? Che il rapporto tra città e campagna non è necessario coglierlo e definirlo in termini di sempre di tecci. Ma sono complementari. No, momento, sono complementari. Ma nel Cinquecento, lei giustamente dice, nel Cinquecento c'è una divisione fondamentalmente della produzione in modo tale che in campagna no, si realizza questa modernizzazione con i rigo, eccetera, eccetera, in città c'è invece la manifattura che si espande. E quindi fondamentalmente è una complementarietà che però alla pari quasi, cioè che non prevede dei rapporti di sfruttamento o di dominanza di uno di questi due poli sull'altro. Nel corso del Seicento invece questo rapporto si modifica, tant'è vero che c'è questo interessantissimo fenomeno dello spostamento di città produttiva della storia fuori e dell'asse fiscale. E anche dell'asse fiscale. Allora, il problema, secondo me, è da porre anche per te. Non è possibile, però, contemporaneamente, noi sappiamo, appunto, che i proprietari, quelli che hanno investito in città, sono comunque io darei atto, insomma, almeno in parte, no, di questo, ecco, sono perché mi accanto che stanno in città. Contemporaneamente sappiamo che in città c'è anche un problema di sviluppo istituzionale, cioè c'è un aumento della burocrazia, e io sono sempre molto perplesso quando si elimina il problema della burocrazia in termini di parassitismo. Cioè, ho sempre il sospetto che la burocrazia serve, sia una delle forze produttive non indifferenti, perché sostiene molto spesso, aiuta, accompagna, difende, tutela, eccetera, eccetera, esatto, no? Processi di produzione primaria. È produttivo in senso smithiano. Sì, no, ma certo, certamente, nel senso tecnico del termine. Allora, quello che voglio dire io è questo. Non è possibile pensare che nel Seicento si possa interpretare questo rapporto con città e contado in termini di una dominanza della città sul contado in termini politici, in senso politico. Cioè c'è uno sfruttamento, c'è un'organizzazione, no? Dei ceti cittadini che detengono il potere politico, l'organizzazione del potere, nei confronti della campagna. Per cui il fatto che dalla campagna che in campagna si trasferisca la città cartoriale, di per sé non è un pensiero. Ma io sono sempre... Allora, questo, volevo concludere in questo senso. Questo cosa significa? Ti dico una cosa che è sempre appunto una cosa. Cioè, è il problema dello Stato. Cioè, voglio dire, cioè, a questo punto, più che nel Cinquecento, noi ci troviamo di fronte a un'unità di organizzazione della vita sociale e politica, no? Che comprende contemporaneamente la città e la campagna, molto più che nel Cinquecento, in cui il ruolo di decisione, quindi la fonte dell'investimento, la fonte delle decisioni politiche sull'investimento, la fonte di tutti gli strumenti necessari per accompagnare l'investimento, tutelarlo, eccetera, sta in città. E invece la divisione del lavoro che si sta organizzando porta al fatto che determinate attività della fattoria si fanno fuori. Ma in questo caso qui la dominanza rimane citata. No, lo specifico che qui. Il problema è questo, forse io non sono chiaro, anzi, non sono stato certamente chiaro. Quando io parlavo di città, parlavo di capitale, cioè io parlavo di Milano. Nel 600 tirano sulla testa tutte le città periferiche. Questo è il discorso. Cioè, chi perde in potenziale politico e amministrativo è la capitale formale, Milano, che prima, dalle nuove costruzioni, si può, per esempio, la ricchezza sempre a salvarsi sul piano della tangente fiscale. Col 1620, già anche prima, 1607, 1608, quando accolgono le prime istanze delle città periferiche, che evidentemente sotto certi profili si sposano agli interessi della popolazione del condato, dei nuclei del condato, la capitale perde a favore delle città periferiche. Quindi studi, per esempio, del Jacopetti, per quanto molto imprecisi dal punto di vista, del Meroni, per quanto molto imprecisi dal punto di vista delle statistiche, sembrano trovare Cremona, anche che Cremona vada veramente in crisi come città dal punto di vista industriale, ma per esempio dal punto di vista nell'alzare la voce su una minor tangente fiscale nei confronti della capitale come città, è verissimo. E allora viene coinvolto in tutto questo discorso anche il condato. Quindi, questo che voglio dire io, è la capitale come capitale che perde, cioè è Milano città, non è la città. Riacquistano le città periferiche con importanza, che prima non avevano. Resta però che Milano resta enormemente più forte, cioè tutti i problemi che ci saranno all'anno 700 con il catasto, e con la redistribuzione dei carichi. Ma questo è vero, cioè io voglio dire, non dobbiamo miscelare il discorso economico con il discorso politico, cioè il discorso di schiera. Sono due cose diverse. Cioè io voglio dire, quando Cipolla mi dice siamo in crisi perché la crisi è dell'industria, dell'economia milanese e delle economie delle città, non mi dice ancora nulla il fatto che ci sia in crisi l'economia delle città. Mi dovrebbe dire che è in crisi l'economia di tutto lo Stato nella sua globalità. Che poi, sotto un profilo squisitamente politico, squisitamente amministrativo, è chiaro, la capitale vanti ancora una preminenza nei confronti delle altre, anche se, a mio modo di vedere, sono un esperto di questi problemi, a mio modo di vedere, questa preminenza, questa prima egemonia, adesso è diventata una prima inter pares, Milano, perché prima era nettamente superiore, questo non sposta il fatto che certamente la città ha un suo valore politico, amministrativo più alto del mercato. Il discorso è diverso a seconda che io lo faccio in relazione alla crisi di tipo economico o alla crisi di tipo istituzionale. Per me, istituzionale nel senso cittadino, soprattutto della città, per me c'è anche una notevole flessione sotto il profilo istituzionale, nel senso cioè che, e questo sono pienamente d'accordo con Schiera, c'è un agglutinamento di tutto il territorio, di tutta la popolazione sotto il profilo dello Stato. Lo Stato, visto nella sua globalità, è molto più assestato nel 600 di quanto non lo sia nel 500, dove c'erano dei vuoti rappresentati proprio dalla campagna. Sono due discorsi, cioè io faccio il discorso qui a storico economico accennando alla giustificazione della crisi di tipo imprenditoriale cittadino partendo dal presupposto che un'economia è tanto più avanzata quanto lo è industrialmente avanzata. Ecco, io qui dove pongo il problema? A me non sembra che si possa soltanto essere così drastici, oppure a dire che non è avanzata perché sopravvivono ancora dei sistemi, delle strutture feudali. Non sono convinto che il caso milanese manifesti il permanere di strutturalismi di tipo feudale e telecampagne. Non sono d'accordo nel dire che la certa e chiarissima decadenza dell'economia cittadina ha determinato una crisi economica sociale di tutto lo Stato di Milano. C'è un discorso, sotto il profilo, se vogliamo, della crescita nell'ambito del sistema precedente, c'è da un segno più, si passa a un segno meno, come tendenza su un piano nell'ambito di un sistema. Ma se parliamo in termini di sviluppo socio-economico, proprio anche questo fatto della prima schiera, dell'agglutinamento dello Stato, per me questa è una crisi di crescenza, non è una crisi di, non è una crisi di evoluzione. Ci sono gli elementi per poterlo dire, certo che sono cose lente, cioè qui siamo proprio nel campo broderiano della non più re. Cioè non possiamo qui dire, devi scappare. Che rabbia, volevo dirti una faccenda mentre lo dico. Non so se ho reso l'idea, l'ho detto anche. Certo che la giustificazione in termini concreti, se vogliamo, anche secondo indicatori precisi, come giustamente suggeriva, indicatori precisi, statistici, quantitativi, anche per questo discorso, speriamo che venga fuori. Io voglio distinguere, non so se gli articoli che ho suscitato un po' di queste cose, forse non sono stato chiaro nell'articolo, però io ho sentito nel concetto di crisi economica della città e di crisi di egemonia economica e fiscale della capitale nei confronti da. Tanto io che dico che alto alla cresta di felicità del codice, insisto su questo concetto, quindi questo. O mi sono forse dilungato troppo su questo problema, ma per dire un altro esempio che mi è molto interessato e che mi trova perfettamente consenziente. Quindi, a questo punto c'è da dire, se tutto allora viene in un certo senso sviluppato, non dico risolto, ma sviluppato, insomma se il meccanismo è già in atto, funziona con riguardo per esempio all'esilio nel Cinquecento, alla fine del Cinquecento, come sistema per parlare in modo specifico dell'esilio. Io mi chiedo, è giusta allora l'osservazione, anche come è stata dichiarata, forse per essere gentile nei miei riguardi, da parte di Cittolini. Quando io dico, mi pare che non ci sia una crisi involutiva nel mondo rurale, eccetera, dice lui, ma il fatto che soltanto che si sia fermato, che non si sia più, perché tutto era già stato risolto. Ma io vorrei dire questo, quando lui per esempio accenna al fatto che si è avuto una diminuzione dei canoni negli affitti. Va bene, però io qui vorrei dire una cosa, attenzione, la diminuzione dei canoni degli affitti, non ho fatto adesso dei conteggi in modo preciso, avviene proprio, e penso, proporzionalmente al fatto della diminuzione generale dei prezzi determinata dalla... Sì, abbastanza. Allora qui non è che ci sia, che sia una diminuzione reale, è soltanto... Intendevo proporlo come l'indicatore. Perché ho la sensazione, adesso Pizze Coppola che vuole intervenire, forza Coppola. No, io volevo dire anche su questo piano, tanto la diminuzione degli affitti nel periodo Cinquecento, quanto anche l'aumento del periodo successivo alla metà del Settecento, bisogna veramente ponderarli molto sul piano dell'andamento dei prezzi in generale, insomma, qui c'è proprio. Secondo l'aspetto, anche se potessimo calcolare una diminuzione degli affitti, questo non vuol dire che sia diminuito il rendimento della terra, è aumentata la forza contrattuale del mercato che limita la rendita, ma non è detto ancora che abbia fatti aggiuntivi. Ecco, questo punto qui era l'altro punto, me l'ha anticipato Coppola. Cioè io ho questa sensazione, questo proprio l'ho ricavato dai dati del, non so se sia, del Trivulzio. Mi sembra che se noi scomponiamo l'affitto, e forse lì lo si può fare su una certa contabilità di tributi, che non so se è quella che hai visto anche tu, tra profitto del fittavolo e rendita del proprietario, io ho la sensazione che non diminuisce il profitto del fittavolo, diminuisce in parte la rendita del proprietario. Cioè, ho la sensazione che, comunque saranno tutte ricerche da fare, ma vista nella sua globalità, ragione di fare Coppola, la diminuzione dell'affitto, non necessariamente il canone d'affitto, intanto va rapportata alla diminuzione generale dei prezzi, alla tendenza generale dei prezzi, nello stesso ordine di misura. In secondo luogo, non coincide con una diminuzione del rendimento del rendimento della terra. Anzi, sotto certi profili, almeno per dati che io ho raccolto, è anche quasi aumentato in questo periodo, per certi, il rendimento agronomico della terra. Che significa che sono stati tagli aggiunti? Vorrei inserire quel discorso degli affitti, però è un altro discorso, ma No, no, prego. No, no, io per adesso posso fermare un attimo. Cercare di capire il discorso di Chittorini, che per alcuni per moltissimi elementi mi trovo consentendo. Io trovo nel 500 un altro grado di espansione di quelle che sono le caratteristiche del vivo, tipiche del vivo, che è un grado di alta maturità, insomma, del sistema militare. Ecco, quello che avviene dopo, se si ipotizza appunto che nel 500 tutto è stato fatto, in un certo senso si è raggiunto un grado difficilmente superabile, chiama chiaramente il problema della decadenza per poi recuperare il discorso dell'aumento, diciamo così, almeno dal 1740 in poi. E questo discorso naturalmente deve essere spiegato anche in termini o economici in generale o agronomici, cioè la produttività, eccetera, agricoli in senso stretto, che mi lasciano piuttosto perplesso. Gli indicatori usati da Chicciolini. L'irrigazione. L'irrigazione è certamente abbastanza sviluppata se si prende lo Giano, se si prende alcune zone del basso milanese. Anche già nel basso milanese non è così alto. Però è l'irrigazione primaria che ha raggiunto il massimo livello. Resta il discorso dell'irrigazione, chiamiamola così, secondaria, che poi tra l'altro grava sul disabile, non tanto sulla proprietà, che è quella della ridistribuzione delle acque nell'organizzazione degli appezzamenti. Cosa che per conto mio continua con uno stilicidio che va avanti, insomma, anche oltre il 600, io l'ho visto per esempio dal 1680 e 1730, dove si chiede sempre il permesso delle acque natatizie, di tirar fuori un'altra bocchetta, di tirar fuori le rocce sono, come dire, sovrabbondanti, pertanto si può utilizzare, eccetera. Si fanno addirittura delle rotazioni dei terreni per permettere una distribuzione migliore, diversa, eccetera. Si aggiungono volta per volta centinaia di pertiche, negli anni si raggiunge un'organizzazione irrigua diversa da quella, come dire, ottenuta nel 500, che era ampia, ma diversa nella sua organizzazione, in maniera che le zone che di per sé non venivano calcolate perché impaludate, le zone che di per sé non venivano calcolate perché considerate gerive, eccetera, eccetera, di fatto pian piano scompaiono in questo tipo di nuovi. Questo è un primo aspetto. Questo è un primo aspetto. Quindi io direi, può essere indicativo il fatto che è vero che nel 500 si ha questo grado estremamente ampio di irrigazione, però è anche vero che è passibile di modifiche, che è passibile di riorganizzazione, che è passibile di cambiamenti. E anche di ampliamenti, anche a livello minuto, periferico. È vero anche che le rotazioni non cambiano, salvo nel 700 dove io ho notato una diminuzione che però è crescita, cioè da 9 anni a 7 anni significa aumentare di prato. Cioè? Ecco, in giro generale. Sì. Però io noto il fatto che si ha all'interno della rotazione una sostituzione, che è stata fatta via senza limpa, che era il discorso del mare, che si ha un'innovazione interna, senza toccare la struttura delle rotazioni, con la sostituzione dei grani a minor rendimento con i grani a maggior rendimento, che l'Oelberg lo chiama una defensive innovation, no? Cioè vale a dire quel tipo di innovazione difensiva, capacità che ha ancora di fronte a situazioni esterne di pressione, che ha il sistema di reattivo ancora di creare altre possibilità, altre occasioni. In conclusione, bisogna tenere conto che le condizioni di un'organizzazione agraria devono essere riferite sempre a un assetto demografico ed economico ben specifico, mutate le quali ovviamente c'è un diverso assetto e un diverso indice di, come dire, di calcolo della capacità produttiva di quell'ambiente. Voglio dire che finché noi non sapremo niente sulla demografia, per esempio, sull'organizzazione demografica, questa festa di Milano benedetta, come incide sulle campagne, che sappiamo soltanto, c'è il famigerato Rappo, che è il professor della Maddalena, portando a Venezia, portandovi a Venezia, calcola che nel 1655, quindi esattamente 20 anni, era già ritornata come Venezia, possiamo dire, dell'emigrazione, eccetera, eccetera, eccetera. Ma se questo, questo non avverrà per Milano, però sappiamo Milano, il contatto, sappiamo che incide molto meno nel contatto. Quando recupera? Come recupera? Che mobilità sociale? Dopo 50. Come organizza? Dopo 50. Questo tipo di situazioni a me interessa, perché quando uno legge, per esempio, il discorso di Ruggero Romano sull'arretramento, sulla decadenza dell'ambiente, non porta soltanto il caso del milanese di Milano. Dice che il Senato si lamenta che la latta ormai ha straripato, che l'impaludamento è ormai un elemento comune. Fondamentalmente questo elemento io non sono riuscito a ritrovare da nessuna parte, non solo, ma ho tutti gli elementi di una crescita diversa ma sensibile di altri indicatori che mi stanno a dire che l'assetto agricolo in una struttura di quel genere si organizza meglio, anche se non ha risultato quantitativamente forse venditi, ma non c'è domanda, non ci sono questi elementi, però si organizza. Fatti pensare soltanto a come si riorganizza a metà del 600 la contabilità aziendale. Ecco, io su questo non sono tanto d'accordo. Il tributo però lì comincia a vedersi. Ma lì se la maggiore ce l'aveva già prima. Questo è un altro discorso. Bisogna anche vedere se altri livelli l'avevano già prima. Ecco, io volevo solo dire questo. Io chiedo un attimo la parola. Ecco, io non ho detto che tutto era fatto, i giochi erano giocati, io ho detto che se si guarda al sistema così si ha la sensazione che il grosso salto in avanti qualitativo, non di poche centinaia di perdite, ma di tutta un'organizzazione, sia in 500. E su questo, quanto al fatto del canone d'affitto come indicatore discutibile, sono d'accordissimo, in aspetto degli altri, ecco, però si lavora su quello che c'è. Perché appunto, proprio per evitare quel tipo di discorsi alla Ruggero Romano di dire il lato straniero con l'economia in crisi, bisogna sapere allora che cosa è, cosa c'è. L'altro discorso della produttività, d'accordissimo, infatti ho citato le Roalderie proprio per dire questo, c'è tutta questa corrente dalle Roalderie di Malthusiani e non Malthusiani che dicono, ma guardate, meno è alta la popolazione, più stagnano i prezzi, più c'è la possibilità che il tasso di produttività, non la produzione globale, aumenti. E probabilmente nel 600 Lombardo, probabilmente può essere capitato così. Ma io non ho ancora trovato da nessuna parte che questo risulti, cioè al di fuori del modello che sia stato accertato. E quanto a questo discorso che sottende i vostri, De Maddalena e Coppola, cioè che le cose continuano ad andare bene nel 600, a me mi va bene, sono contento, però no, attenzione, ma no, è un problema relativo, no, questo è il fatto, cioè noi per momenti, ecco, perché noi veniamo da una fase che il professor De Maddalena definisce cipolliana, ma che io generalizzerei, come si misurava il progresso economico, sapori, tutti i nostri padri, le città, le manifatture, città, i mercanti, dico cipolliana perché quello che ha parlato su Milano in modo soprattutto. Da 8-10 anni in qua, non solo in Italia, si guarda di più al momento centrale della rivoluzione industriale, quindi che cos'è che deve cambiare? Deve morire la città proprio per lasciare la strada a questa rivoluzione industriale che, come avevano già detto Marco Cattaneo e tanti altri, nasce nel contado, no? Però questa, come dicevo prima, è la condizione necessaria, ma non sufficiente. Voi ditemi che nel 600 le cose vanno bene, benissimo, ma il lievito viene di fuori, insomma, è quello che ma si certo. aspetta. Perché tutto il resto... Ecco, era solo... Il lievito viene di fuori, da dove viene di fuori? Ma è proprio qui il problema. Qui mi ricollego un momento alla domanda che mi ha fatto Prodi. Provenienza di capitali dell'agricoltura. Ma è proprio questo che mi induce a attirare l'attenzione sul fatto dell'imprenditorialità, del proto-capitalista lombardo. Lo spostamento verso la terra dei capitali, nel momento in cui si hanno i massimi rendimenti del 500 come rendimenti percentuali rispetto cioè all'investito dei capitali, ancora nell'industria, è ancora fino al 580, 590, è sempre nell'industria, non toglie che contemporaneamente si vada verso la Terra. Cioè, il problema è, a mio modo di vedere, questo. Allora, in maniera esplicita, si fa un discorso di convenienza economica comparata. Chi ha capitali valuta non soltanto la situazione sul mercato X, per esempio quello degli investimenti in entrate pubbliche, in appalti di dazi, che potrebbero essere anche altissimi, offrono anche l'8, il 9%, il 10%, in attività industriali che certamente offrono più di quel 3, di quel 4% che alla fine del 500 può offrire l'agricoltura, rapportando anche il 7-8 rispetto al prezzo alla perdita dei terreni per quella cosa. C'è, ma è la valutazione globale del fenomeno, cioè è l'economia intesa non più settorialmente, ma intesa globalmente. Quindi è sintomatico un fatto, io trovo, proprio adesso nell'aver studiato l'andamento del tasso di interesse è sintomatico un fatto. A parte la correlazione fra produttività, benefici tratti sul piano delle attività, diciamo, di speculazione puramente finanziaria sulle fiere, e quindi il diverso andamento del tasso di interesse rispetto al tasso di rendimento in fiera. A parte questo, c'è significativissimo un fatto. Quando nel 1658 il lavoro del Copa va in crisi, il Banco di Sant'Ambrogio, addirittura quasi al limite del fallimento, nel 1658, la grande crisi del 58, tutti quelli che ritirano i capitali dal banco e che l'avevano già naturalmente anche ritirati anche prima, perché il banco tra l'altro dava un rendimento estremamente basso, 1,5%, 2%. Dove investono? Non certamente in industria cittadina, ma trasferiscono, e sono centinaia di migliaia di lire, trasferiscono tutti questi in campagna. Ma come in campagna? Chiarissimo, io ho davanti 6-7 casi di gente, grosse famiglie milanesi, una sono gli Acchinto, l'altra sono i Serbregondi, l'altra i Trivulzio, l'altra ne ho 7 in mano, tirano via, comprano terra. Coincide nel momento di un revival dell'attività sul mercato immobiliare, 1658, quando appunto poi il tasso di interesse aumenta. Acquistano parte nella zona asciutta, parte nella zona completando, cercando di completare le possessioni precedenti, organizzando. Quindi distolgono il discorso che fanno, è un discorso squisitamente economico, di convenienza economica comparata, e proiettato in futuro. Un altro fatto sintomatico, i notai, nel 600, a partire dalla metà del 600, lavorano sempre di più nei borghi. Sempre di più dei corsi. Addirittura i notai di Milano si creano dei corrispondenti nei vari borghi, dove tutta quella fascia, soprattutto quella fascia che Sella ha definito nell'incontro che abbiamo avuto, la fascia in cui si installa già nel 600 chiaramente quell'industria che poi esploderà nell'800, la Valle dell'Olona, la valle dell'Ambro, la Valle del Ticino, eccetera, cioè la Brianza, e ecco, in questo periodo tutti i notai milanesi si creano degli uffici, dei bureau, anche qui a Cantù, a Como, a Castellanza, a Rescaldina, a Asso, a Canzo, eccetera, tutta questa fase in cui nascono proprio all'inizio delle vallate, cadute d'acqua, le filande, eccetera. Sintomatico, mi pare. Andiamo a vedere tutte le richieste di aperture di credito, i prestiti che vengono fatti in questo periodo. Io adesso credo, se avrò il tempo, se buon Dio mi dà vita, di catalogare anche sotto questo profilo i 15.000 atti che ho lì per il 600, 620 e 720. Le richieste di credito che vengono fatte, i prestiti che vengono richiesti, sono nella 80-90% della loro totalità investiti in o terre nel momento in cui la terra conviene, quando dopo il 1875-80 non conviene più la terra, in tutte queste piccole fabbricucce e quindi e soprattutto nell'alta, nella zona collinare. Chi sono? Sono sia gente cittadina che fa questo, anche se risiede in città, sia addirittura oggi in gran parte gente che abita nel contadino. Ed è qui per me il punto che oggi dobbiamo chiarire, non so se riusciremo mai a capire come è andata la situazione demografica nelle campagne. Perché noi sappiamo di questo recupero della, numerico, del numero degli uomini nella città, in Milano, lo sappiamo un po' per Cremona, ma in campagna non sappiamo nulla. Quello che possiamo dire è questo: i due terribili decenni di crisi, dal 1630 fino a quasi 1650, vedono certamente una spopolazione nelle campagne, e questo qui è un grossissimo guaio dal punto di vista anche agricolo, e questo lo immaginiamo, questo qui è una fase intermedia. Col 1650 la situazione migliora nettamente nelle campagne, e per esempio le doti, incredibile l'andamento delle doti. L'andamento delle doti è ad altissima, cioè l'andamento delle doti, l'andamento dei prestiti che vengono fatti su doti è fortissimo fino alla metà del 1600. Va sempre più calando col 1680-1690, i prestiti su doti, cioè la dilazione di pagamento della quota totale in denaro, si riduce a quantità irrisoria rispetto a prima, come entità in questo caso, al di là di quello che è il tasso, poi il saggio di Scopi. Che cosa vuol dire tutto questo? Evidentemente le condizioni delle campagne mi sembra che probabilmente siano migliori. Se non si ritardano i pagamenti, se la dote viene data, ci deve essere un abbassamento del tasso di mutualità. Io ho l'impressione che non sia questo, cioè si sposa di meno, ci sono meno doti. No, perché io non ho fatto adesso l'analisi di tutte le doti, di tutti i contratti dotali che abbiano o non abbiano dilazioni di pagamento della quota in denaro. E quindi non lo posso dire, purtroppo non l'ho fatto. Se ci sono 30 anni di lavoro per mettere insieme questi 15.000 atti, non l'ho fatto. Ma io sono convinto che se qualcuno dei nostri giovani andasse a fare una valutazione delle doti che vengono aperte, non solo quelle spirituali, ma soprattutto quelle temporali che vengono aperte, aumentano come numero di atti notarili alla fine, e diminuisce il debito. Quindi, perché questo avviene? Perché probabilmente nelle campagne c'è una situazione migliore. Questo a partire dal 680-685. Le richieste invece di prestiti aumentano, e aumentano con quella destinazione di cui io vi ho parlato. Ora, non so, io ho questa sensazione, ma certo che se noi valutiamo sul piano del congiunturale, abbiamo dei momenti di grave depressione. Questi due decenni, se gli anni 30 e 40 sono di grave depressione anche in Campania, ma se lo vediamo nella longue durée, insomma, io ho dei dubbi a parlare di una crisi nella sua globalità di recessione. È una crisi che certamente avviene nel settore industriale, ma che a mio modo di vedere non investe tutto. Quando portano già le... Parliamo poi del 500, quando appunto c'è l'investimento nella terra fatto al 3% piuttosto che al 12%, è un discorso strategico quello. Questo è chiaramente un discorso di strategia imprenditoriale, distribuzione del rischio. C'è da dire anche su questo investimento che i calcoli, non riesco a fattoria, ma l'abbiamo sentito, insomma, no? E anch'io, da un piccolo calcolo che ho fatto, due o tre casi, alla fine del 1670-80, mi sono capitati per alcuni elementi, rapportato al valore di vendita del terreno, l'affitto era, quindi la rendita, diciamo, della proprietà, quindi non, diciamo così, il profitto intero, insomma, no? Non è reddito agrario. Non è reddito agrario in generale, globale, ma soltanto la rendita era del 5%. Doria addirittura penso che sia superiore quasi del 7%, 8%. Questo rapportato al valore di vendita del terreno. Cioè, però se noi calcoliamo che la gran parte di questa gente, a un certo punto, oltre a un bilancio patrimoniale, anche il più delle volte ha soltanto un bilancio d'esercizio, perché la terra l'ha ammortizzata da tempo, certo. L'investimento nudo e crudo del proprietario fondiario significa scorte, sementi, quando ci sono, e l'irrigazione primaria, se noi facciamo il calcolo, ci dà un rendimento di esercizio superiore al 14-15%. Sì, ma questo è... Quindi, come dire, avere la terra conviene. Sì, ma il discorso è chiarissimo lì. Insomma, il discorso è chiarissimo in tutte le contabilità, l'ho trovato più volte indicata questa propensione alla terra come propensione proprio volta a realizzare un profitto, non soltanto investire. Potrei prendere la parola. Il loro discorso mi ha molto interessato perché trovo una stranissima analogia al di fuori dei territori con il Trentino. Il Trentino è un principato a sé stante, cioè un microorganismo che vive una vita sua, e ha avuto un fenomeno analogo. Per esempio, come lei ha affermato, l'industria si trasferisce verso il centro di fuori della città. E se prima della città, per esempio, abbiamo 3 industrie, da noi, in luoghi ben stabiliti, aumenta il numero delle fornaci, il numero delle vetrerie, il numero delle fonderie, il numero dei setifici, non soltanto, ma accadono dei fenomeni stranissimi. Nel 1600 abbiamo il trasferimento delle banche al di fuori delle città, perché una città piccola come Rovereto sommerge completamente Trento. Questo lo posso dire perché gli antenati di mia moglie facevano i banchieri in quel periodo e sono finiti in un piccolo paese uscendo dalla città per fare questo mestiere. Per esempio, i notai, e hanno un'importanza fondamentale, spariscono, si può dire, da Trento, vengono polverizzati. Per esempio a Pergine, che di fronte a Trento apparentemente è un piccolo paese, noi abbiamo un numero di notari eccezionali, ad un punto tale che si può dire tutto lo studio notarile lo si fa sul Perginese, sulla Valsugana. Borgo diventa un centro di importanza primaria, Pergine diventa nel 600 uno dei più grandi mercati, per esempio, di transizione d'Europa, la famosa Claudia Augusta, Venezia e altre zone. Cioè, quello che mi è interessante è il problema è italiano. Che pur vivendo in alto italiano, alto italiano. Dice a sé stante, quel fenomeno che è accaduto da voi avviene anche da noi. Cioè, quindi non è un fenomeno, direi, politico, ma è proprio un fenomeno di travaso dalla città verso la Campania che offre la possibilità. È un grosso problema, questo della crisi è un grosso problema. Poi l'ho buttato là, studiato. Questo parla degli indicatori, quando l'amico Giorgio parla degli indicatori, io sono perfettamente d'accordo, ma certo dobbiamo prendere degli indicatori anche qualitativi, come possiamo fare questo? Gli indicatori quantitativi, possiamo fare? Quel discorso di De Vries per l'Olanda che mi quaglia, no, del Villar per la Catalogna, che mi quaglia perfettamente anche con Milano. Sì, e anche quello del De Vries sotto certi aspetti. Scusi, per esempio, nel 600, quando abbiamo questa operazione industriale, sono tutti ricchi i nobili della città di Trento, i quali per esempio avevano setifici, vedi lì a Prato, ed altri, i Salvatori, che abbandonano la città, e i setifici le fanno lungo solo la valle dell'Adige, in posti chiari come Mori, come Volano, come Rovereto, eccetera, la città viene completamente abbandonata, rimane un centro politico e basta. È un grosso problema, Io ho dei dubbi a chiamare una crisi di recessione, ecco, questo è il fatto. Che sia crisi, lo è senz'altro crisi, siamo in crisi. No, mi sembra che Contitolini abbia ragione di dire appunto che può essere appunto un mutamento, comunque implica la defaturazione perché si ristrutturi in un modo solo. Questo, ecco. Però io quello che non capisco bene è questo, no? Lei fa richiamo a questo elemento strategico. Ora, così va bene, ma pensare a una capacità di strategia. Sicuro. Oh, io sì, ne sono una strategia che sa passare, che sa prevedere, che sa passare di via 50 anni attraverso una destrutturazione per poi arrivare di via 100 anni a una ristrutturazione. Questa è una capacità strategica pazzesca. Ma basta leggere le relazioni che mandano gli ambasciatori veneti dal nord, da Londra, da Coso. Dovete modificare il sistema perché qui non farete più concorrenza a questa gente. Lo suggeriscono chiaramente. Gli ambasciatori di Milano, quelli che tornano da Madrid, che cosa dicono? Dobbiamo cambiare sistema. Avremo dei concorrenti che ci Questo lo dicono già nel 500. Cioè, io ho questa sensazione che qui noi dobbiamo andare anche su questi indicatori, direi al massimo, anche al limite gli indicatori letterari, gli indicatori di cosa. Insomma, nelle poesie del Carlo Maria Maggi, se andiamo a vedere le poesie di Carlo Maria Maggi, il discorso sulla campagna diventa fondamentale. Ma è chiaro che quella ma certo, ma il Marino, insomma, questo discorso che ha fatto adesso, bellissimo, di Tito Livio, il documento lì, l'ho intravisto, adesso me lo voglio rileggere dopo quello che tu mi hai detto oggi, di Tommaso Marino, tutta quella questione lì. Insomma, questi qui sono gente che valutano le cose su un piano spaziale, temporale, a larghi orizzonti, non sono più, ma non sono già dei protocapitalisti, nel senso, quindi sono degli imprenditori. Insomma, no, dicevo a Carlo Maria Maggi, le poesie di Carlo Maria Maggi, se andiamo a fare una valutazione. Certo che se noi prendiamo quel documento anonimo che io ho riportato in quel saggio, eccetera, che mi pare che è estremamente significativo proprio, questo qui che è chiaro, un operatore di Milano, probabilmente legato a una corporazione, membro di una corporazione a tutta l'area di cosa, è un anonimo purtroppo, non sa chi sia, il quale si spaventa perché vede il crollo dell'economia cittadina, e lui era un mercante o un operatore che viveva su questo. Tutti i capitali fuggono in campagna, lo dice chiaramente, tutti i capitali, le fiere dei campi sono la peggiore iattura per la cosa, perché la ricchezza nasce all'ombra delle case delle città, l'albero della ricchezza è quello che nasce in città e non nasce in campagna. Ma questo è chiaro, cioè il piccolo mercante, o il mercante che corporativizzato è legato all'attività cittadina, che dice, significativissimo, gli uomini che sono nelle Fiandre, vi dicendo, sono ben più avanti di noi, scenderanno e ci distruggeranno, adesso io non ho riportato poi tutte le frasi su questa cosa, ma la visione, certo che lui è sperimentatissimo, per lui è tutto un sistema, è tutto un impianto strutturale che crolla per lui. Ma i Danta, i Crivelli, i Carcano, questi qui, gli Archinto, i Trivulzio, cioè questi nobili che ormai si aprono a queste nuove esigenze, sono nobili, non lontani, insomma. Ma qui io, non è che io, lo vedete che sono un buon amico di Brodetti, rischia di essere un brodelliano tanto sviscerato da accettare tutto quello che dice Danta. Insomma, quando mi fa quel discorso sulla durata delle famiglie per tre secoli, forse esagererà, ma io sono convinto che c'è molto del vero. Io, le 60, le 70 famiglie che reggono le sorti di Milano sono quelle che tra il 400 e il 500 si formano le ossa e che rimarranno ancora nell'800. Sì, saranno i generi, anziché, è chiaro, no? E lì non sarà più lo stesso nome, ma sono tutte legate, sono loro che portano avanti il discorso, cioè sono loro che travasano i capitali dall'uno all'altro. Capiscono che non ce la fanno più a competere. Chi compete? Compete Genova, perché Genova non ha un investimento, non ha, cioè, dove deve andare a investire? Nel sud. E perché? Giusta l'osservazione che ha fatto Mozzarelli, l'osservazione sui genovesi, la condivido in pieno. Cioè, là è molto più comodo andare nel sud perché hanno il feudo che li difende, a Milano non li difende il feudo. Anzi, a Milano adesso nel 600 è picchiata il celestimo rurale che li picchia. Grazie ai genovesi, se loro vengono qui a Milano, non riescono ad andare più giù. Insomma, non vengono a Milano, questo è vero. Il discorso è un discorso interno nostro, perfettamente d'accordo con quello che dice, io sono convinto che sia del vero nel dire questo, cioè questo richiamo. Questa cosa conferma che la lunga durata delle grandi famiglie, evidentemente non essere d'accordo, si sorregge però, oltre che su una probabile eccezionale capacità strategica e territoriale, anche sull'uso e sulla trasformazione ben giocata di istituzioni. Ma chiaro, ma è tutto lì. No, ma parlo di un'economia della vita, non parlo di una vita economica. Io parlo sempre di un'economia della vita vista in tutte le sue dimensioni. E quindi tutti i fattori intervengono. Mi spiace, vedo che Capra che sono le 5, forse devo andare a Milano. Ma scusi, ma anche le strade stesse cambiano, perché le strade più importanti vengono proprio trasferite al di fuori della città, e questo fenomeno nasce proprio sul problema del contrabbando, cioè un prodotto che deve entrare in una città, che deve essere sottoposto ad una tassa, improvvisamente viene svicolato in un'altra direzione, e lo stessi qui nel Trentino, scusi, da Venezia, abbiamo una strada fatta attraverso le montagne del Trentino verso il 1600 per il contrabbando dei vini italici che devono entrare in Alemania scavalcando la città di Trento, cioè intorno alla città di Trento. Per la Lombardia c'è proprio su questo, c'è tutto un lungo capitolo del Caizzi sull'importanza del contrabbando come creazione di nuove strade. Certo, è questo, e allora la città non esiste più, diventa un mezzo secondario e il paese diventa un mezzo primario. Cioè, non è che diventa secondario, da un punto di vista politico, da un punto di vista di certe decisioni fondamentali, sono sempre città, certo, che si prendono. Ecco, no. E questo non è che io sono perfettamente d'accordo. Posso aver esagerato, forse non mi sono spiegato molto bene, non so se nell'articolo, non credo di aver detto queste cose. Io parlo di posizione economica della città, di posizione fiscale della città. Se c'è questa frase nell'ultima pagina, qualcosa di questa appunto capacità di previsione a lunghissima distanza, no? Dice, si capisce soltanto se si pensa che questi ragionavano sul lunghissimo periodo, cioè una cosa di questo genere. Ecco, che non so, a me è rimasto un po' perplesso, nel senso che mi vedo tutti i campi, probabilmente appunto a contingenti, quindi a strutture di governo, di potere. Cioè io tenderei a interpretare più in relazione all'oggi che a un domani ancora tutto sommato una tanti potere, cioè anche la rivoluzione industriale non si è ancora realizzato bene in questo mondo, proprio il senso della famiglia come continuità credo che giocasse un ruolo immenso, insomma, anche proprio nella distribuzione economica di capitale. Cioè, non conta la rendita di oggi quanto l'inserzione di un patrimonio all'interno di un gioco secolare, sostanzialmente. Io ho belli, per esempio, tutta la storia delle Robbene di una significatività enorme, insomma, questi che partono, cioè, acquisiscono subito una grossa importanza come mercanti, come industriali, come sposa una nobile perché ha delle proprietà terriere, aumenta le proprietà terriere, i figli giù e con su. Però tengo le terre. E come giù e con su, riesce a rafforzare le strutture della proprietà fondiaria, in quanto giureconsulto ha delle possibilità, bravo, benissimo, non le dico, però lui è giureconsulto in città, ma ha l'occhio molto fuori, nel condado, ma io questo lo discuto, cioè che sfruttano tutte le possibilità, vanno alla terra perché la terra riesce a creare queste posizioni, poi di queste posizioni si avvalgono, è tutto un gioco, è questa una strategia, non è una tattica. Può restare a sportivare senza pensare a uno sviluppo di questo, cioè qualcosa che voglio presente di oggi, cioè di dire che ci sono degli elementi, ma questo non vuol dire che ci sia un sistema capitalistico, insomma, ecco. Ma io non dico, ma non dico. Ma se facciamo. Ma io non dico mica, non direi, non parlerei ancora in termini capitalistici, secondo modo di produzione capitalistico, via dicendo. No, io direi piuttosto, direi imprenditoriale a largo raggio, non più imprenditoriale di tipo manifatturiero. Ormai è un'industrialità a largo raggio. Addirittura che gioca sul mercato anche finanziario, che gioca sul mercato delle entrate pubbliche. La banca, eccetera. Cioè, mentre forse quello genovese è il classico capitalismo di tipo finanziario che procede proprio perché l'ambiente è diverso, quello milanese è proprio estremamente variegato, estremamente screziato. E c'è in tutto questo, mi pare, proprio giustamente un discorso, il discorso del capitalismo lombardo. Il discorso del capitalismo lombardo è un discorso. È un discorso che non può essere correlato con i discorsi di capitalismi inglesi o cose. Insomma, questa è una. Certamente è un altro discorso. Sì, il connubio che viene in Lombardia è mercato terra. Prima mercato industria cittadina, poi è mercato produttivo. Insomma, quando quando il Verri dice la nostra campagna, cos'è? Dice, offre il 25%, il 28%, il 38% del burro a tutta l'Europa. Il discorso è un discorso evidentemente di export tipo ad un certo momento. È chiaro che è un discorso di export tipo, no? È lì dove si trovano le cose, quindi è il mercante che regge, non è più l'industriale. D'accordo con i proprietari terriero. Quindi ecco perché dico è il mondo rurale che prende il sopravvento, che non significa la distruzione della città come centro di certe decisioni che vengono assunte, ma sono le realtà, sono le variabili che sono soprattutto quelle del contado che contano dal punto di vista economico. Questa visione è ormai globalizzante, cioè un qua globalizzante alla Brodet, vista in questo senso, è questo. Un testuale globalizzante, dice in questo senso. E allora tutto presente il gioco centro, semiperiferia, periferia. Nell'economia mondo, per usare il suo termine, il termine che parla Einstein, la world economy. E allora, vediamo un momentino questa Milano. Cos'è Milano? È Milano il centro o è fuori? Cioè Milano diventa periferia o diventa centro? Se facciamo... Lo mette nella semiperiferia. Ecco, l'ha portato fuori. Ma come era portato fuori sarebbe una semiperiferia già a quest'epoca. No, ma dico, se noi consideriamo come economia monda l'economia del milanese, dello Stato di Milano, qual è il centro? Quali sono le semiperiferie e quali sono le periferie? Ho dei grossi dubbi che si possa fare che una tesi del tale Zani si possa esaurare, perché è talmente integrato il tutto. È talmente integrato. No, adesso c'è bisogno di dire è finita e parlare invece così. Sì. Premetto questo, dubito molto di che possa parlare di economia buona, perché credo che l'economia in quanto tale sia comunque un fenomeno settoriale a cui non si può attribuire dopo il tempo di globalizzare il mondo. Ecco, credo che. Ma non è proprio l'economia settoriale, l'economia mondiale di Brodelli è l'economia settoriale, dire voi, non è l'economia mondiale. Io non voglio dire mondiale, dico globalizzante, cioè non mi pare che sia possibile, soprattutto a partire da una certa epoca, attribuire a un settore importantissimo per me, ma secondo me. Non fondante in modo esclusivo della realtà umana come economia, per cui è l'economia, una connotazione globalizzante. Bisogna tenere conto, tanto l'economia di altri. Ma l'economia globalizzante è proprio quella che mette dentro l'economia con tutte le variabili. Allora è l'economia dell'economia. Amen. Ma scusi, da un punto di vista. Sono proprio quello che continuo a dire. Quando parlo del qualitativo di tutto. Da un punto di vista industriale, fino al 1800, dal 500, noi non possiamo impiantare industrie su grandi fiumi, vengono spazzate via. C'è stato uno studio tecnologico in tutta l'Europa, per cui le grandi industrie sono impiantate soltanto su canali o su torrenti, quindi al di fuori della città, per esempio. Sì, allora la discussione è terminata, io ringrazio il tecnico di Matteo. Il problema però ha spalorato, se mi sono appassionato.